GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. La Commissione europea seguirà da vicino con le autorità cipriote, gli Stati membri e la BCE l'attuazione delle misure restrittive imposte ai movimenti di capitale che resteranno in vigore per 7 giorni. È quanto si legge in una nota emessa stamani da Bruxelles. Intanto, per sentire cosa accade nell'isola, sentiamo il racconto dalla centralissima Ledra Street di Roberto Bongiorni. Sì, buongiorno a tutti. In questo momento mi trovo a Ledra Street, la famosa via più battuta dai turisti della città vecchia di Nicosia, dove, quasi ironia della sorte, ci sono all'entrata due grandi banche, Bank of Cyprus, e a pochi metri dividono la stradina la Laiki, vuol dire la Laiki, la banca liquidata, e la Bank of Cyprus, la banca dove sono confluiti i depositi sotto i 100.000 euro, quindi garantiti, della Laiki, ma che tuttora sta attraversando gravissime difficoltà finanziarie. Ebbene, dopo 12 giorni di chiusura, sono riaperte le 12 con una certa puntualità, possiamo dire, gli sportelli. Ci sono state code, ma contenute, tutto si è svolto con molta calma. Adesso non ci sono neanche 7-8 persone davanti agli sportelli, soprattutto persone che erano sprovviste di bancomat. Qua sono molti gli extracomunitari che lavorano, asiatici che non hanno il bancomat, o commercianti con in mano gli assegni da depositare perché non si possono riscuotere, perché oggi entreranno in vigore, sono già entrate in vigore le restrizioni predisposte, le transazioni bancarie predisposte dal governo per evitare una fuga di capitali dall'estero, ipotesi che metterebbe in ginocchio l'economia dell'isola. Ripeto, quindi, una giornata particolarmente calma. Ieri notte sono arrivati ben 5 miliardi di euro di denaro contante dall'Europa, i bancomat funzionano. I ciprioti a questo punto dovranno convivere con queste restrizioni, che peraltro prevedono limiti all'uso della carta di credito, non più di 5.000 euro al mese per le transazioni all'estero e non più di 3.000 euro al mese quando si esce dal paese, e comunque non potranno prelevare molto dai loro depositi. Roberto Bongiorni da Nicosia. Lo ricordo, è la prima volta che un paese membro dell'Unione Monetaria impone restrizioni sui movimenti di capitale. Ancora, la Commissione europea vuole convincere gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. Lo ha reso noto il commissario per l'azione climatica, Connie Hedegaard, precisando che una consultazione, che si chiuderà il 2 luglio prossimo, permetterà di raccogliere i pareri dei governi, delle aziende, delle ONG coinvolte in vista della stesura di un libro bianco che riporti le diverse proposte. L'Unione europea si è già data 3 obiettivi da raggiungere entro il 2020: ridurre le emissioni del 20% rispetto al 1990, aumentare al 20% la percentuale di rinnovabili e realizzare un'economia del 20% grazie all'efficienza energetica. Il piano dunque è battezzato come 20-20-20. E con questo abbiamo concluso. In regia Roberto Scaltritti, Gigi Donelli al microfono. L'appuntamento con GR Europa domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.